Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Eccoci, eccoci. Eccoci. Ci sono, grazie a... Ebbene sì, August, il nostro amico Agosto. Moglie mia, non ti conosco. Adesso ho soltanto capire come fare ad ascoltare me stesso, e non è una cosa da poco, devo dire la verità, perché effettivamente non capisco qual è il monitor. Qual è il monitor qua in sta porcheria? Eh? Aiutami, aiutami tu, aiutami tu, aiutami tu. Va bene, Radio Antidoto, sono le 19:15. Io non ho tempo da perdere, c'ho una partita da giocare. Che casino, proviamo a vedere se parte la sigla. Adesso mi ascolto col cellulare. Mi ascolto col cellulare. Via, proviamo a fare, come si fa a play qua? Come si fa a play qua? Così? No, non si fa così. È tutto difficilissimo comunque. È tutto incredibilmente difficilissimo. August. Allora. Quindi questo qui è chiaramente... Allora, qui dovrebbe esserci un play da qualche parte, no? Niente, era la versione lofia della sigla, ne possiedo svariate, così tutti i file MP3 che muoiono a caso, è tutto sbagliato, va bene. Sono in via Andezeno, ho trasmesso per 4 anni, ho trasmesso per 4 anni, più o meno, non continuativamente, con tutte le difficoltà del caso, da un posto chiamato Via Bra. Su un solaio, questo solaio adesso è stato svuotato, non c'è più niente nel solaio, è vuoto il solaio. E io in qualche modo oggi sono qui per raccontare la storia, la mia storia dentro a questo mondo di Radio Antidoto, che appunto ci ha permesso di scoprire, esplorare, crescere, aiutatemi a dire, nel senso che non è banale e probabilmente è difficile da fare in questo modo barbaro. Quindi adesso mi organizzo come posso, come vedete, adesso ho inserito lo sfondo musicale della mia trasmissione, però non mi sento, non capisco cosa succede. Detto questo, va bene, cioè nel senso ci tenevo tanto a essere qui. Devo rimettere un attimo le idee in bolla. Finalmente sono riuscito a capire da dove proviene il suono che vi sto inviando. Questa è già una vittoria mia personale rispetto a questo programma diabolico che si è inventato, sto americano diabolico. E quindi riuscirò a inserire delle tracce, sì, ce la posso fare. E quindi io parlo mentre imparo a usare questo sistema che in teoria io ricordavo di saper già usare, ma nel frattempo è cambiato, credo. Credo perché non lo riconosco più. Per esempio, potevo barare, potevo mettere della roba da YouTube. C'è più, è sparita. Barare così, questo è molto affascinante, però mi impedirà di ascoltarmi. Quindi questo richiederà un utilizzo particolare, del mio computer. Allora, 19 e 19, 21 marzo 2024. Radio Antidoto nasce in primavera e col nuovo anno solare, come si suol dire, no? E è molto affascinante questo perché nella mia esperienza, da quando io ho iniziato a trasmettere, a far parte di questo mondo, le cose hanno smesso di succedere per caso. E anzi, tutto è iniziato a funzionare secondo meccanismi del destino. Per esempio, io volevo trasmettere Casa Nuova, ma non pensavo che avrei trasmesso oggi, perché non ricordavo che oggi era il compleanno della radio, e io tra un'oretta circa devo essere da un'altra parte a recuperare i miei compagni di squadra, perché alle 9:30 giocherò una partita dello sport che pratico io, si chiama Hitball, di cui avete sentito tanto parlare, contro una squadra parecchio forte. E quindi diciamo che il piano era quello di andare a casa, riposarmi, mangiare qualcosa e poi appunto recarmi presso il luogo di appuntamento e recuperare i miei compagni di squadra. Non dovevo passare da Casa Nuova, non dovevo passare da questa che è casa mia, la casa che ho acquistato assieme a mia moglie e che dalla prossima settimana ci ospiterà. La cosa veramente affascinante di tutto questo che vi sto raccontando è che io non soltanto, come appunto vi sto cercando di raccontare per quanto goffamente, vi sto trasmettendo la prima trasmissione dalla mia nuova casa, che questa è già di per sé una roba abbastanza grossa dal mio punto di vista, ovviamente, ma lo sto facendo per il compleanno di Radio Antidoto, ma lo sto facendo durante il primo giorno di primavera, ma lo sto facendo dentro una stagione che è la stagione delle eclissi, e il giorno del mio compleanno ci sarà la prima delle due eclissi, l'eclissi di luna, e contestualmente quella notte sarà non sarà la prima, probabilmente sarà la seconda che dormirò dentro questa casa. Però il punto, secondo me, è molto importante, è che tutto sta convergendo come dire, in un finale, in una specie di gran finale di un lavoro spirituale enorme che io sono qui a raccontare. Quando sono entrato a Radio Antidoto, non so se vi ricordate, ero molto imbarazzato, raccontavo cose molto personali, però con molta difficoltà, con molto dolore. E invece io adesso entro su Radio Antidoto e smanetto a caso e faccio un po' anche il gradasso con questa radio, perché nel frattempo ho guadagnato esperienza e consapevolezza. E la radio è stato, come dire, il sentiero che mi ha permesso di arrivare fino a qui, il sentiero che mi ha permesso in qualche modo di scoprire me stesso secondo una luce nuova che nemmeno io pensavo di conoscere. E non dico che sia stato merito di Radio Antidoto, ma sicuramente Radio Antidoto mi ha dato una piattaforma nella quale sperimentare, e non penso di essere l'unico di questa piccola comunità che racconterebbe questa storia se ne avesse la possibilità. Stay. provato a fare una cosa con... ho fatto pasticci, ho provato a fare una cosa con questo strumento di Ogos che mi si è ritorta contro, quindi colpevolmente ho interrotto l'ascolto di questa canzone di Sean Lennon che si chiama Home, che era molto evocativa, no? Perché insomma trasmetto dalla mia nuova casa, e insomma è una trasmissione improvvisata per rendere grazie a un'impresa che in qualche modo mi ha visto partecipare e mi ha dato tanto, e la sto facendo con mezzi di fortuna a dir poco. Devo dire che in questo mix è stato davvero molto traditore rispetto al solito, tradito in maniera abbastanza netta. Per esempio, adesso io vorrei fare sta roba qui, no? Vorrei far partire questo suono. Riuscirò a farlo senza autodistruggermi? Proviamoci. E innanzitutto abbasso il background e stacco il microfono. Sì, ce l'ho fatta, sono molto soddisfatto. Sto imparando a usare Mezcal in maniera opportuna. Dunque, allora, 19:26, mi ero promesso una 40 minuti, mezz'ora, non vi voglio stressare l'anima. Quindi io ne approfitterei per mettere dell'altra musica, che sto scaricando mentre sto parlando, perché noi facciamo la radio così, noi facciamo la radio sul momento, cioè è questo il bello, insomma, proviamo a fare del nostro meglio con quello che abbiamo, e per cosa? Per raccontare delle storie, cioè noi siamo nuclei di storie, nodi di storie. Mi ricordo che c'era una cosa che... No, il microfono basso, mi dice Bonelli, però è strano perché ce l'ho a palla. Però posso fare questo, posso avvicinarlo alla bocca, e funziona? L'auto gain? Sì, funziona. Adesso mi dà un fastidio folle, quindi lo levo dal monitor, tanto io comunque trasmettere trasmetto. No, ma io non è vero, no. Ho fatto tutto un discorso. Come state? Sapete che c'è, vi mando la musica. Keep it home. si sta cominciando a capire come funziona questo. Forse sto cominciando a capire. Un poco alla volta. Ecco, però ogni tanto mi sbaglio. Ma adesso però non sto capendo, perché in teoria io ho una sola fonte sonora, quindi perché? Scusa, perché? Che si sente doppio? Vabbè, la gente strana prima si odia e poi si ama. Ehi, come on! Maria! Ehi, come on! Maria! Ehi, come on! Maria! Ehi, come on! Buy views and now it's old news, but also bad news for everybody. People buy views and now it's old news, but I got bad news for everybody. Holy water is no juice, but I know us Jews, we don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views and watch your back. And watch your back, I'll break your neck, I'll pop a can of iron like an ancient black. Your name in black, the list I'm keeping over back. The others keep the numbers fake and cut the rank, so every day I'm low until I blow. Digging hell, I call me Dash of Snow. Money, leather, puppets run the show. Underrated, calling me Jacko. Underlay, my view, we have to go. See you later, underrated, see this here, let me go. At the gate of Eden, cotton, I'll be on the speedy, putting tiny trolley with my slate in. Clean and shining, but they don't mind it, you gotta chime in. They don't know what to keep in store. When I become big cash, they be on the score. They don't know what to keep in store. Buy fools, buy views, touch wood, no, I don't pop with that. Adesso, se tanto mi dà tanto, io sto trasmettendo la mia voce sopra la musica. Se tanto mi dà tanto, perché qua ormai non ci sono certezze di nessun tipo. Però è molto strano, no? Cioè, c'è qualcosa che non funziona più. Nel senso che io sono qui, è il 21 marzo 2024, è da un sacco che non vengo in onda, non mi funzionano i software, non riesco a mettere insieme due parole azzeccate, non riesco a far funzionare il microfono e vorrei dire qualcosa di molto intelligente, ma non c'è. Perché in qualche modo io probabilmente ho toccato un po' il punto di venire qua a fare voce e musica, così quando, diciamoci la verità, una trasmissione come quella di Fred dell'altro giorno, di ieri, con quei bellissimi mix con la musica persiana, è proprio un altro campionato. Tutto il lavoro pazzesco che in quest'ultimo periodo ha fatto Asco con le sue trasmissioni sperimentali, complesse, stratificate. E il bello è forse questo, nel senso che la sensazione è che ci siano sempre delle buone mani a raccogliere questa risorsa. E mi trovo spesso in quest'ultimo periodo a dover rincorrere le emozioni. Per esempio, oggi pomeriggio a un certo punto avevo una tristezza addosso. Da un lato volevo non avercela, come capita con la tristezza, abbastanza normale, no? Nessuno vuole essere triste. Dall'altro avrei anche avuto voglia di, come dire, smaltirmela. E cosa è successo? Che io non sono stato buono lì per lì a smaltirmela la tristezza, perché ero distratto. Come adesso sono distratto da questa benedetta interfaccia o dal fatto che devo tenere il microfono attaccato alla bocca, come sono distratto dal fatto che guardo la chat e dobbiamo cominciare a fare trasmissioni a cazzo, eccola qui, guardo la chat dal cellulare, sono connesso al cellulare, la casa è vuota, rimbomba tutto e voglio far stare tutto dentro questa capsula di tempo che è sempre piccola, minuscola, questa capsula di tempo. Abbiamo una giornata a nostra disposizione, quindi rileggi la mail con Fred, lavora con Fred, però c'è anche quello che mi chiede una mano e poi c'è il lavoro e poi c'è il trasloco e io sono triste perché vorrei essere più alto e mi sale la tristezza e allora penso vabbè, adesso mi prendo 5 minuti in cui sono triste perché non sono alto e poi comincio a fare le mie cose. Questa cosa del non essere alto mi sembra una cosa un po' stupida, quindi risolviamocela veloce, ma non c'è tempo, non si fa in tempo ad essere incazzati perché non si è alti che ti arriva la telefonata, oppure quei 72 audio che non ho ascoltato mentre tinteggiavo casa, adesso è il momento giusto di ascoltarli e poi vai seduta dall'analista. E l'altro giorno, mentre davo il bianco, ho ascoltato la puntata di Fred che è andato in diretta per due ore pazzesche. Io ho fatto di tutto, ho tinteggiato, ma sono anche uscito con la macchina, ho riposato, ho mangiato, ho fatto veramente un sacco di cose e ho pensato al lockdown e ne ho parlato anche oggi in ufficio, non ho parlato della radio, ne hanno parlato i miei colleghi del lockdown e delle cose buone. È stato un momento terribile perché è morta tanta gente e ci sono stati un sacco di lutti e ci siamo tutti spaventati e per un certo periodo il mondo era strano, non funzionava più come eravamo abituati a vederlo funzionare e in qualche modo ci ha distratti, ma ci ha anche atterriti, ma ci ha anche rinchiusi, ma ci ha anche sfidati, ma ci ha anche rovesciati. E Radio Antidoto è nata in quel mondo alla rovescia che era il lockdown, dove io ero chiuso in casa e avevo due ore per ascoltare Fred, nessuno mi disturbava, non avevo niente di particolare da fare, io potevo ascoltare Fred, ecco, perché poi è difficile, nel senso, abbiamo fatto la radio in tanti modi e ogni tanto ci siamo, come giustamente dice Fred, ci siamo troppo confezionati e abbiamo fatto le interviste, abbiamo fatto le dirette, e abbiamo fatto il trasformatore, abbiamo fatto tante cose, e, però quello che risulta difficile è ascoltarsi adesso, perché tutti rincorrono qualche cosa. E questo mi fa venire in mente la mail che spedirò lunedì, scritta da Fred, che c'entra molto con questo argomento, perché sì, vabbè, la mesata, le bollette e tirare a campare, d'accordo, ma l'ascoltarsi, ma anche l'ascoltare se stessi, ce l'abbiamo 5 minuti per essere tristi e forse sì, però in qualche modo non ce ne accorgiamo più, di nuovo, e di nuovo poi devi prendere, attraversare la città, ficcarti davanti al computer, litigare con Mix, semplicemente perché vuoi dire tanti auguri Radio Antidoto, e quindi tanti auguri Radio Antidoto. When you wanted me, I came to you. When you wanted someone else, I withdrew. When you asked for love, Mi sembra che ci sto prendendo la mano con sto trabiccolo e sono le 19.46 del 21.03 e non manca molto, per la verità, a quando vi dovrò salutare. Stavo ascoltando questa canzone degli Audioslave che di recente ho ripescato dalla mia piccola, come dire, bacheca di cose che ogni tanto ricordo, ogni tanto ripesco parte. Cosa volevo dire? Mi ha ricordato un aspetto fondamentale di quello che effettivamente sta diventando la mia esperienza. Vorrei venire in onda su Radio Antidoto più spesso, non ho tempo, quando vengo su Radio Antidoto non ho molti argomenti. Mi piacerebbe fare trasmissioni più vere e poi mi impappino su me stesso e diventa veramente un esercizio duro, durissimo, ritrovare il filo. E vorrei parlare di una parola che crea problemi, crea sempre problemi. È la parola, forse una delle parole più problematiche che io ho incontrato nella mia vita, non la stavo cercando onestamente. E per la verità me la sarei risparmiata volentieri, ma succede, non c'è neanche niente veramente male in questa parola. Come in tante cose che esistono, di per sé la parola non avrebbe problemi suoi. I problemi sono quando si incontrano le parole e queste parole poi alla fine ci devi fare qualche cosa. E questa parola è vulnerabilità. Io credo che c'è stato un momento in cui forse eravamo tutti nevrotici, e questa cosa dell'essere tutti nevrotici rendeva necessario degli spazi di sfogo, soprattutto per le persone che in qualche maniera si esprimono più col corpo, quindi chi balla e chi anche è abituato a un palcoscenico, quale che sia, dal più improvvisato al più istituzionale. E lo schermo del computer, la distanza, il fatto che non è strettamente necessario che ci si guardi in faccia, rende molto più semplice l'espressione della vulnerabilità, perché si è da soli, io sono solo in questa stanza imbiancata di fresco con Benny, il mio peluche dell'infanzia regalatomi al battesimo, che porto sempre con me e che ormai compierà con me 41 anni, anche se credo che sia più vecchio di così. Quindi io posseggo un giocattolo vecchio di più di 40 anni e lo tratto come se fosse un oggetto qualsiasi, un cucchiaio. E quello che sto pensando è, poi quando torni in onda, rimettere in circolo quell'energia che ti faceva parlare così semplicemente, così spontaneamente, così anche delicatamente e dolcemente delle tue vulnerabilità è più difficile, perché quando sei fuori queste vulnerabilità non funzionano, non sono cose che puoi mettere in scena, che puoi giocare, che puoi mettere in mostra. Le tue vulnerabilità mettono a disagio gli altri, le tue vulnerabilità sono un motivo anche di imbarazzo. E io, per esempio, ho questa vulnerabilità che vorrei lasciare, visto che la trasmissione è in chiusura e finalmente dopo 40 minuti di trasmissione ne avrei trovato anche la quadra. Che Radio Antidoto è stato un percorso spirituale e io ne sto vedendo la fine fuori da Radio Antidoto, ma l'ho iniziata dentro Radio Antidoto. E quello che di recente ho scoperto, ho riscoperto, è il fatto che Radio Antidoto era uno di quei canali che mi ha permesso di vedere me stesso, di specchiarmi e di piacermi. Mi sono piaciuto su Radio Antidoto in tanti modi, sia quando ero molto molto sperimentale, sia quando mi buttavo tanto nelle cose, sia quando sono stato più tradizionale, sia quando ho letto gli articoli di giornale. Ci sono stati tantissimi momenti, insomma, in cui io sono stato orgoglioso di quello che stavo facendo con questo strumento che mi era stato messo a disposizione. Poi, una volta uscito da questa dinamica della stanzetta, ho visto questa parte di me, questa mia vulnerabilità, un po' ne nella necessità di tenerla nascosta, perché sia mai gli altri cosa se ne debbano fare della tua versione più piccola e fragile, via via è andata logorandosi, o nascondendosi o perdendo di forza, nel senso la vulnerabilità, quando la possiedi, poi ti rende forte, ma la devi possedere, altrimenti ti rende debole, ma se la possiedi ti rende forte. E quello che è successo è che io ne ho perso il controllo e adesso sto ripensando a me stesso, quando ero in radio con continuità, quando riuscivo a ritagliarmi il tempo, quando mi permettevo di entrare nelle onde di Radio Antidoto ed essere vulnerabile, mi piacevo molto di più di quanto mi piace adesso, che sono una persona molto attiva su tanti fronti, ma per certi versi sento di aver tradito me stesso. Io adesso volevo mettere in onda due pezzi, ma secondo me il tempo sta giungendo alla conclusione. Quindi ne metterò in onda uno, che è una cosa molto romantica, che dedico a noi e che ci sta in questo contesto, ci sta molto bene. Dopodiché cerco di capire se riesco a tornare in onda, magari metto una sigla, non lo so, comunque, giusto per fare un saluto finale. Sì, è inutile che carico il file adesso, perché adesso devo mandare la traccia. Vi faccio ascoltare, sì, gli Oasis. Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, pain in the morning rain as it soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Microfono. No, scherzi a parte, magari è da 4 anni che faccio sempre la stessa puntata e dico sempre le stesse cose, non lo so, però questo è il mio racconto di Radio Antidote. Siamo nodi di racconti di vulnerabilità, siamo pezze che hanno trovato qui e lì una cucitura a cui legarsi. Io sono molto grato dell'esperienza che ho fatto e spero di poter fare gli auguri a Radio Antidoto anche per il 5° anno, magari con qualche trasmissione un pochettino in più sulla schiena, e spero che ci siano nuovi broadcaster. Spero però più di ogni altra cosa che si trovi il modo di ricreare lo scambio. Cioè, nulla di tutto questo ha senso se non c'è lo scambio, il potersi ascoltare, il potersi incoraggiare, il potersi restituire vissuti, proprio come una grande famiglia allargata ai quattro angoli d'Europa, che si incontra e si racconta. Io sono il primo che è venuto meno a questa cosa. So che alcuni sono più continui di me, so che altri sono spariti, però ecco, Radio Antidoto, perché su Radio Antidoto quando nessuno va in onda si sentono le onde? Perché è un porto, e in questo momento, in questo porto non approdano tante persone, però resta un porto, Cioè, resta un luogo dove ti incontri, resta un luogo dove ti confronti, resta un luogo dove se vuoi puoi anche crescere, puoi anche scoprire che puoi essere qualcosa di nuovo e di diverso, come è capitato a me. E quindi io non lo so se 4 anni che faccio sempre la stessa trasmissione e che palle Rigoni, sempre con il suo filosofeggiare, bla bla bla bla, sempre parlare. Però io sono felice di aver ricevuto questo spazio, sono felice di poter restituire lo spazio della newsletter ad alcune delle persone con cui ho condiviso il viaggio di Antidoto, sono voci che ho ancora voglia di ascoltare e con cui ho ancora voglia di confrontarmi. E la cosa figa è che vi faccio la trasmissione del quarto anno dalla mia nuova casa, nella stagione delle eclissi, vicino al mio 41esimo compleanno, all'inizio dell'anno solare. Quindi, se è vero che Radio Antidoto è comunque un percorso spirituale, o comunque è quel paio di occhiali che ti permette di vedere che le cose non succedono per caso. Allora io voglio vedere in questo un segno di continuità, un segno di, anche di rinascita. E basta, basta. Ho parlato abbastanza alla fine, però sono riuscito a far funzionare il trabiccolo di August. Sono molto orgoglioso di me stesso. Tanti auguri Radio Antidoto, ciao ragazzi, una buona serata a tutti e forza Iron Lion Tyson. Arrivederci su Rigonia.